Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera torniamo su un tema, quello della certificazione energetica degli edifici, con un mix di notizie buone e di notizie cattive. Parliamo, lo sapete, di quei certificati che assegnano una classe di consumo energetico alle abitazioni che sono diventati obbligatori recentemente, classe A, classe B, classe C e così via, al crescere del consumo, che a proposito, diciamolo, ricordiamolo, si misura in kilowattora per metro quadro all'anno, oppure per esempio in litri di gasolio per metro quadro all'anno. Che cosa vuol dire? Che se un appartamento, per esempio, ha un consumo di 30 litri di gasolio per metro quadro all'anno e la superficie di 100 metri quadri, 100 per 30 fa 3000, ci vorranno quindi 3000 litri di gasolio all'anno per riscaldare l'appartamento, illuminarlo, eccetera, eccetera. Ma i consumi dichiarati, ci chiediamo, e quelli reali coincidono veramente? E c'è soprattutto chi controlla? Ne parliamo con Giuliano Dallò, docente di fisica tecnica ambientale del Dipartimento BEST, Building Environment Science and Technology del Politecnico di Milano. Buonasera Dallò, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, partiamo da questi controlli. Ci sono? I controlli sulle certificazioni energetiche non ci sono ancora. Ci sono stati dei controlli in Regione Lombardia sperimentali, una prima campagna di 40 controlli che però sono una molto goccia pochi. Nel mare. Una goccia nel mare, nell'oceano. 40 su? Ma attualmente sono arrivati a 550.000 gli edifici certificati. Deve ancora partire la campagna di controlli vera. Poi c'è un'esperienza in Regione Piemonte, l'ARPA del Piemonte ne ha controllati 9.000, però ha fatto un controllo un po' a maglia larga. Un po' superficiale, diciamo. Un po' superficiale, però per capire un attimo qual è il... Insomma, di fatto controlli che verifichino a posteriori che le classi assegnate siano coerenti con i consumi effettivi dell'edificio non ci sono. E ricordiamo anche che per quanto riguarda la procedura normale, a meno che uno non ricorra a Casa Clima o ad altre certificazioni, la procedura normale non prevede neanche un collaudo, sono tutte stime quindi quelle che vengono fatte, no? Certo, sono i risultati di un calcolo. In effetti il controllo verifica che i dati di input presi dal certificatore siano almeno corretti. Senta, però quando si fanno queste misurazioni, poi vediamo magari qualche caso concreto, c'è un problema sempre, che è quello delle abitudini di chi abita dentro queste case. Certo, perché la valutazione del fabbisogno di energia, quindi che poi si associa alla classe, viene effettuato in condizioni standard, quindi supponendo che uno mantenga l'utente 20 gradi la temperatura per le 24 ore al giorno per tutta la stagione invernale. Di fatto sappiamo che non è così. Quindi misurando a posteriori quali sono i consumi energetici, non è detto che si capisca esattamente qual è la classe. Lei che si occupa di monitoraggi, come si fa a tenere conto di queste abitudini che possono variare molto? Ma diciamo che partendo dai consumi sia già un indicatore di massima. Certo. Però un lavoro curato prevede che ci sia un monitoraggio delle temperature, quindi per un periodo di tempo di qualche settimana durante la stagione invernale si acquisisce il valore della temperatura interna in due o tre locali tipo, lo si confronta con la temperatura esterna e quindi si costruisce a priori un consumo ipotetico che avrebbe l'edificio se fosse mantenuto a 20 gradi. Cioè, il problema qual è? Che se io garantisco una casa in classe A, la garantisco nelle condizioni di calcolo normalizzate. Ecco, se poi un utente usa la casa in modo improprio è un problema suo, però intanto la valutazione la faccio. Cioè, se uno continua ad aprire le finestre, per esempio, poi le chiude e tiene 25 gradi invece di 20, è ovvio che consumerà molto di più di quanto. Certo. Di quanto previsto, e bisogna depurare queste misure che si fanno appunto dai comportamenti individuali. Senta, lei conosce molto bene direi questo tema perché è impegnato in alcuni monitoraggi, ci vuole raccontare un po' di che cosa si tratta e anche com'è andata? Dunque, sì, io sto monitorando due edifici, uno molto grosso a Milano e l'altro a Desenzano del Garda, che sono stati realizzati da Filca Cooperative, quello di Milano in classe A e quello di Desenzano del Garda è in classe B. Per il momento abbiamo fatto monitoraggio nella stagione invernale e i risultati hanno confermato le due classi di efficienza da progetto. Abbiamo rilevato naturalmente delle temperature un po' superiori rispetto a quelle, cioè è difficile che mantengano, che si accontentino dei 20 gradi. Cioè normalmente insomma la gente tira su 22, 23. Si arriva anche a 24 gradi, insomma, certo, vabbè, fanno poco male per questi edifici che consumano molto poco, però insomma... bisogna anche lavorare molto su questo aspetto, cioè dare una bella macchina ma anche insegnare a usarla bene. Ecco, senta, ma i risultati sono migliori o peggiori? Ma leggermente migliori rispetto alla procedura di calcolo, quindi la procedura di calcolo è sostanzialmente corretta, insomma. A patto che appunto ci si mettano dentro poi i numeri veri, certo. Ecco, perché poi qua il problema qual è? Non è semplicemente così un vezzo, è anche che un edificio, per esempio, che ha delle prestazioni da classe C, ma viene venduto in classe B, naturalmente viene venduto ad un prezzo più alto. Cioè bisogna spiegare che queste 550.000 certificazioni dietro c'hanno anche un potenziale giro di soldi, non tutti necessariamente giustificati, piuttosto grosso, se poi quando uno fa i controlli scopre che le cose sono diverse da quelle che dovrebbero, no? Certo, poi c'è anche un altro discorso da fare che siccome ci sono parecchi operatori che svolgono le loro attività in modo corretto, il fatto che almeno sulle classi elevate ci siano dei controlli, quindi ci sia una certificazione della reale prestazione energetica, è un elemento è una garanzia per queste persone. Mercato, certo. Ed è scandaloso, se vogliamo diciamolo pure, che ci siano più di 15.000 persone abilitate o giù di lì, insomma in Lombardia, a fare certificazione energetica e nemmeno una di queste lavori a tempo pieno per controllare le altre 15.000. No? Perché... Sì, non spetta a loro, spetta alla regione effettuare il controllo, però c'è una sproporzione tra i certificati e i controlli che non esistono. Va bene, grazie Dallò. Prego. Ci fermiamo qui, domani un po' di buone notizie dal mondo del termovoltaico. Buona serata.